La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Arriva il momento del cinema, come sempre, come ogni sabato, su Radio 24 a quest'ora. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana cinematograficamente intensa, con tanti film, tante proposte di grande qualità, spunti importanti che ci accompagneranno in questa trasmissione, fra le novità cinematografiche, la presenza di animazione molto diversa ma molto qualificata tra La gatta Cenerentola nostrana e Cars 3 disneyano. E poi Michael Radford, lo ricordate, il regista del Postino? Ebbene, lo sentiremo perché arriva nelle sale con film evento martedì, mercoledì, giovedì prossimi, il suo film su Bocelli, e chiaramente ce ne parlerà qui alla Rosa Purpura. A proposito di film evento, e ci buttiamo un attimo sugli incassi della settimana che si sta chiudendo, continua la marcia di Cattivissimo Me e di Dunkirk in testa alla classifica dei film più visti di questo periodo, di questo inizio di stagione. Ormai Cattivissimo Me veleggia verso i 16 milioni, Dunkirk supera i 7, ma l'evento vero, proprio a proposito di film evento, è stato questa settimana il concerto di Pompei di David Gilmour, straordinario film e ovviamente straordinario concerto, che è stato primo in classifica nei giorni in cui è uscito, e questo mi fa pensare, ma tutto sommato non lo si poteva tenere in sala di più? Questi film evento hanno proprio bisogno di essere collocati nelle giornate centrali della settimana, o forse possono anche provare una lunga tenitura, chi lo sa. Lanciamo il sasso nello stagno e poi passiamo subito a sentirci, a raccontare, a collegarci il cinema con Boris Sollazzo. Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo lì, Boris Sollazzo, pronto nella sua postazione. Da come è fatta la postazione di un critico? Cos'è, una gabbia, una vetrina? È una gabbia, sì, perché tipo quella, citando un film che esce oggi, tipo quella di Leatherface. Esatto, una gabbia, una maschera, che tu devi stare lì, devi stare buono, perché il critico deve stare lì, perché è anche uno, come dire, che esce forte e dice le cose come deve dirle. E chissà come ce le dirà Boris Sollazzo su Appuntamento al Parco, che è il primo film di questa settimana della quale vogliamo parlarvi, con Brendan Gleeson, con Diane Keaton, con il Parco nel titolo, che fa sempre risuonare un po' la grande commedia americana. Questa però è una commedia romantica, sentimentale, che racconta l'incontro fra due persone molto molto diverse che, come spesso accade fra le persone molto molto diverse, troveranno qualcosa in comune. Ieri era un anno esatto, mamma, te lo sei ricordato? Ciao Charles. Sì, me lo sono ricordato. Cosmificatore schifoso! Com'è andata con James? Senza impegno, Emily. Se aspetti troppo, finirai avvizzita come un'albicocca d'importazione sul banco del supermercato. E allora, siamo a Londra, siamo in Inghilterra. Emily, vedova americana, che vive di fronte a un parco fatiscente, un parco lasciato un po' andare, nel quale c'è un uomo che ha un po', come dire, forse buttato via la sua vita, che ha avuto una vita molto difficile, che si è costruito una sorta di piccola baracca che è diventata la sua casa, è diventato il suo mondo. Un uomo molto dignitoso, burbero, forte, ma poco avvezzo al contatto con gli altri. Ecco, quel parco vicino a questo ospedale sta per essere coinvolto, diciamo, in una sorta di speculazione edilizia. L'incontro fra queste due anime così diverse, forse cambierà la storia. Quella con la S maiuscola è quella dei loro cuori che si incontrano, quello di Diane Keaton e quello di Brendan Gleeson. Boris, gli ingredienti sono quelli giusti della commedia sentimentale, la messa in scena riguarda personaggi che ormai sono sulla soglia della terza età, diciamo così, e questo ci dice molto anche del target che si vuole andare a raggiungere, però la brillantezza di Diane Keaton e quella faccia un po' così di Brendan Gleeson probabilmente fanno la differenza. Fanno assolutamente la differenza, aggiungerei che gli ingredienti sono quelli giusti, la ricetta è conosciuta perché il regista è lo stesso regista di Oggi e Già Domani con Dustin Hoffman ed Emma Thompson, che avevano le stesse, anche se chiaramente ribaltate, le stesse provenienze geografiche e più o meno la stessa età. C'è qui anche una parte politica, e devo dire, questa parte politica è il motivo per cui, se tu vedi da un lato questo film lo trovi adorabile, se lo vedi dall'altro lo trovi incompiuto. Proprio perché è un film fatto, secondo me, in maniera mirabile da parte dei due attori, in particolare da Diane Keaton, in un cinema in cui tutti e soprattutto tutte cercano di non invecchiare, ha capito che invecchiare con grazia, eleganza e una straordinaria bellezza, fare dei propri capelli candidi una forza e trovare, secondo me, una maturità artistica e interpretativa che aveva in passato, ma in maniera diversa, più nervosa, e che adesso invece è dolcissima, è tenerissima, è una forza e non è una debolezza. Ed è anche la forza di questa commedia sentimentale, perché spesso in questo genere ormai, che potremmo chiamare old movies, c'è una donna che rivendica il suo diritto a invecchiare e c'è anche un uomo che rivendica un altro diritto, che è quello di vivere come vuole. La storia è vera, tra l'altro, la storia del personaggio che interpreta Brendan Gleeson, cioè un uomo che rifiuta la vita di tutti gli altri, rifiuta la dittatura del consumismo e decide di occupare il suolo pubblico con una baracca e provvedere a se stesso in maniera autonoma. La sua vicina di casa è appunto Diane Keaton, che invece di fatto non ha accettato questa condizione, perché era una donna borghese, finché il marito non muore la lascia in preda ai debiti e lei deve combattere con questi debiti per mantenere lo status quo, fino a che però non aprirà una finestra nel momento giusto o chissà sbagliato e vedrà Brendan Gleeson e contro ogni previsione se ne innamorerà, e da qui parte una commedia sentimentale gustosissima, perché i due riescono a tirare su un minuetto, un duetto che è perfetto, riescono ad avere i tempi, gli sguardi, i gesti, anche l'occupazione dello spazio mirabile. Dall'altra parte il regista però si dimentica totalmente una parte fondamentale del film, che è quella incarnata appunto dal personaggio di Brendan Gleeson, cioè un uomo contro tutti, un uomo che vuole far capire che c'è un altro modo di vivere, diverso e possibile. Sarebbe anche giusto, perché magari privilegiare la strada d'amore è anche la strada per non dare troppa pesantezza al film, se non fosse che però poi il regista e lo sceneggiatore ci mettono dentro citazioni di Karl Marx che rendono abbastanza grottesco il tutto e che fanno capire che invece un'intenzione politica, una volontà politica anche nel film ci fosse. Quindi è difficile capire se promuoverlo o bocciarlo, e quindi mi limito a rimandarlo a settembre, anche a settembre. C'è nessuno? C'è! Spero di non averla disturbata. Ormai l'ha fatto. Sono diverso da come si aspettava? Sembra... Cosa? Più pulito. E questo era allora il film con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione, Appuntamento al Parco, adesso Viabilità, poi torniamo subito perché ci aspetta Tom Cruise con Barry Seal. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta La Rosa Purpurea. Primo della classe nella pattuglia aerea civile. Uno come te non dovrebbe portare gli autobus. Benvenuti a Miami. Benvenuti a Bakersfield. Non hai mai voluto qualcosa di più, Barry? Dovresti servire il tuo paese. Sei della CIA? Devi consegnare della roba per noi. Ed è legale? Ti fidi di me? No! E allora questo è il primo trailer, il primo pezzo della clip di Barry Seal, il film con cui riprendiamo la nostra Rosa Purpurea, film in sala con Tom Cruise protagonista, Doug Liman in cabina di regia. È un duetto che funziona, questo, in un film che è assolutamente un film di grande intrattenimento. La storia vera, tra l'altro, quella di un pilota che era stato licenziato dalla linea aerea per la quale lavorava, si era, fra virgolette, ridotto, diciamo così, da pilota d'aereo a pilota di autobus, e come avete sentito nella clip viene contattato per chiedere se le sue capacità di pilota, era uno dei migliori, possano essere utili per, diciamo, traffici non proprio legali. Siamo nell'America a cavallo degli anni 70-80, c'è aperto il fronte del Nicaragua, c'è Jimmy Carter alla presidenza, sta per arrivare Reagan. In questo contesto Barry sceglie di provarci e diventa sostanzialmente un agente della CIA per molte delle operazioni sotto coperture più rischiose della storia degli Stati Uniti. Molto molto a suo agio Tom Cruise in questo ruolo Boris, perché riesce a trovare quella sua, a ritrovare un po' la vena per quella sua capacità di essere brillante e un po' gigione, che forse è una cosa che ogni tanto gli era mancata. A mio modo di vedere è la sua vena migliore, e qui forse la può far esplodere in tutta la sua pienezza. Sono pienamente d'accordo. Barry Seal è un film di Doug Liman. Doug Liman è forse uno dei più bravi registi su commissione che ha gli Stati Uniti, ma qui trova quella felicità di divertimento, di intrattenimento che aveva nel suo primo Swingers, scritto da John Favreau. Dall'altra parte c'è Tom Cruise che gioca con la sua immagine, anche con quella sua fisicità che continua ad essere straordinaria per l'età che ha, con il suo sorriso, con la sua volontà di piacere e allo stesso tempo con l'autoironia che ha trovato da Tropic Thunder in poi. Unito questo a una storia vera, cioè Barry Seal è esistito veramente, è morto a 47 anni, ucciso dai fratelli Ochoa, che erano due esponenti del cartello di Medellin, e qui si apre un altro fronte di Barry Seal, cioè in un periodo in cui l'icona di Pablo Escobar è stata raccontata da Loving Pablo, è stata raccontata da Narcos, noi vediamo la vicenda del cartello di Medellin dall'altra parte, dalla parte di un pilota che decide insomma di entrare dentro traffici improbabili per aiutare il suo paese, come diceva il trailer, sul fronte del Nicaragua, di quello dei guerrieri sandinisti, e sul fronte del cartello di Escobar. Nella verità, dal 1984 al 1986 sostanzialmente Barry Seal è il cavallo di Troia con cui si riesce a abbattere quel cartello. E nel racconto cinematografico noi vediamo un antieroe solo al comando che riesce, grazie al suo cialtronismo intelligente, a vincere contro dei nemici davvero complicati da affrontare, e anche all'interno di un sistema che forse non lo capisce del tutto, ma che riesce a sfruttarlo al meglio. Il divertimento è assicurato perché l'intrattenimento è perfetto, non si perde mai ritmo, c'è anche un grosso gusto nella scenografia, cioè ci sono una valorizzazione dei colori, il giallo in particolare che fa molto anni 70. In qualche modo si riesce a raccontare un'epoca senza prendersi troppo sul serio. C'è qualche debolezza nel film, che è magari la volontà di Doug Liman di fare un po' troppo Scorsese in alcuni momenti, ma ci sta, perché nella grammatica del film è perfetto anche quello. Quindi devo dire, Barry Seal è davvero il film che tu dovresti andare a vedere il sabato sera con i tuoi amici, magari maschi, perché c'è molto buddy movie, molto divertente, con una grande capacità di raccontarti una storia seria senza prendersi troppo sul serio. Ed è anche questo uno dei segreti del cinema hollywoodiano che ci piace di più. Aerostar, vi ordiniamo di atterrare immediatamente. D'accordo, figli di puttana, atterriamo. È il vostro giardino. Questi sono per i danni e qui c'è un piccolo extra per tua sorella. Ciao tesorino. Non mi avete mai visto? E allora, Barry Seal, Tom Cruise al cinema, noi invece cominciamo a giocare insieme, cominciamo a scaldare i polpastrelli perché c'è la prima traccia del film misterioso di oggi. Che sta facendo? Ha detto che la pelle è troppo spessa per essere perforata dall'esterno. Ma questa è un'idiozia! Io ho provato! La pelle ha lo stesso livello di spessore sia all'interno che all'esterno. Sì, lo so, grazie. E allora, avete capito un po', qui si tratta di pelle dura a livello spessore, insomma, non siamo in una camera operatoria, ma in uno dei film che hanno un po' contrassegnato l'ultima stagione, ma soprattutto gli ultimi anni, a livello di saghe che hanno un po' preso piede, insomma, cerco un po' di darvi qualche dritta. Il nostro indirizzo di posta elettronica per giocare è sempre il solito, la rosa purpurea, @radio24.it. Il titolo del film, mi raccomando siate precisi, il vostro nome, cognome e indirizzo per provare a vincere i due Blu-ray che sono qui che vi aspettano e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Apriamo adesso la pagina dedicata all'animazione, perché ci sono due film che sono arrivati in sala, molto molto diversi fra loro, ma anche molto molto belli. Due film d'animazione, uno italiano, il che ci fa sempre un po' battere il cuore, perché l'animazione italiana è sempre andata un po' avanti a strappi, possiamo dire, nelle epoche. Di questo fra poco parleremo, e l'altro è Cars 3, che era uno dei film più attesi per l'animazione di questa prima parte di stagione. Cominciamo con Gatta Cenerentola. Alle spalle c'è la storica fiaba di Giambattista Basile, inclusa nella raccolta postuma Locunto degli Unti, da cui era nato il film dello scorso anno di Garrone. Quindi, come dire, c'è evidentemente una riscoperta forte di Basile. Gatta Cenerentola invece si intitola il titolo, che perde l'articolo, non perde sicuramente il grande fascino di questa storia. 15 anni aspettato che venisse questo giorno. Guarda, guarda, così doveva essere. E io dovevo stare al posto tuo. Però vedi, noi siamo solo la prima parte della storia. Il meglio deve ancora venire. Il matrimonio è l'unico vero strumento di rivoluzione sociale. La storia della piccola Mia e delle sue sorellastre, figlia di un uomo che era veramente un filantropo, che voleva trasformare Napoli nella città della scienza. Mia rimane orfana dopo che suo padre viene ammazzato da omalamente della situazione, vive insieme alla matrigna e ai sei fratellastri in una nave da crociera dismessa nel porto di Napoli, e lì partirà in silenzio, nel dolore, il suo desiderio di liberazione prima ancora che di vendetta. Di Gatta Cenerentola, che ha uno stile molto particolare e ha una regia firmata addirittura a 8 mani: Alessandro Rack, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, vogliamo parlare con un'amica, una collega, Karin Ebnet, che dirige un sito specializzato in animazione che si intitola Movie for Kids. Ciao Karin, benvenuta alla Rosa Purpurea. Ciao. Allora Karin, raccontaci un po' questa Gatta Cenerentola, un film che ci dà ancora un segno di grande vitalità dell'animazione italiana. Assolutamente. E che ci dice che forse l'Italia ha una via da seguire per provare ad affermarsi, che non è quella di provare a inseguire invano la computer graphic animation, ma è quello di trovare, liberare le sue forze espressive in un'animazione magari tradizionale, ma di grande segno grafico, di grande potenza visiva. Ma guarda, questo assolutamente. Gatta Cenerentola, oltretutto, proprio emerge per questa sua animazione, che ha uno stile quasi pittorico e che colpisce proprio sia nello sguardo che nel cuore. E questo è un film veramente molto potente. Alessandro Rack ci aveva già stupito con L'arte della felicità, e adesso appunto con 8 mani questo Gatta Cenerentola, che è stato presentato, come sapete, a Venezia con un successo pazzesco, tant'è che Variety l'ha anche definito uno dei migliori film animati degli ultimi anni. Questo denota proprio che l'animazione italiana ha tantissimo da dare. In arrivo ci saranno anche altri autori emergenti o comunque che hanno già qualcosa alle spalle, che ci faranno vedere che l'animazione italiana è altro e non segue necessariamente la strada tradizionale dell'animazione che vediamo al cinema di solito. Assolutamente, e tra l'altro il cinema italiano lo fa un po' dappertutto, sono 40 anni, 50 anni che non fa sistema, come si suol dire, cioè esatto. Ci sono delle punte che scintillano e poi però non si riesce a mettere lì un sistema che vada avanti tutto insieme. Ma guarda, mancano i soldi, fondamentalmente manca la fiducia, e manca la fiducia nell'animazione, perché spesso l'animazione viene vista unicamente come un prodotto al servizio dei bambini o delle famiglie, mentre in realtà l'animazione è un linguaggio. E non è un genere a sé, è un linguaggio, e che quindi può essere declinato in tantissime forme, e in Italia noi sappiamo declinarlo in forme veramente poetiche e meravigliose, ma purtroppo c'è poca fiducia. Senti, speriamo che cambi questa cosa. Assolutamente, e questo film potrebbe far cambiare le cose, perché comincio già a sentire che potrebbe anche essere inserito nei film italiani per gli Oscar, addirittura potrebbe finire nella categoria miglior film d'animazione. Ma guarda, io sono convinta che questo film in questo momento stia smuovendo delle acque e delle acque importanti. In realtà l'aveva già fatto, come avevo detto, con l'arte della felicità, perché aveva già puntato i riflettori, e questo è stato un ulteriore step per far notare proprio la forza che può avere l'animazione italiana. E adesso dobbiamo soltanto tenere le dita incrociate, insomma, e sperando che questo film apra un po' le menti e i portafogli e che diano un po' di possibilità ai giovani autori che hanno tanto da dire. Ora la bimba è sotto la mia tutela. Io torno a prenderti, Mia. Ti porterò via da qui. Se non ci fossi io a badare a te, tu faresti una brutta fine. La nave ci osserva, ci registra, ci elabora, ci rimette in scena. Sono luoghi per dirsi addio ed altri per ricordarti mamma, di chi sono. Mamma, come c'ho bello! Molto presto di voi resterà solo un vecchio ologramma sbiadito. Insomma, super promosso Gatta Cenerentola, il film d'animazione italiano di questa settimana e sicuramente di quest'anno. Adesso lì nella regia, però Karin Ebdent rimane con noi, perché fra poco parliamo dell'altro gigante, questa volta dell'animazione, che arriva nelle sale italiane. Si tratta di Cars 3. Afectuoso para nuestro amigo Pino Insegno y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24. La Rosa Purpurea. E allora, siamo tornati qua in studio, La Rosa Purpurea, per parlare ancora di cinema in sala, di cinema d'animazione. Dopo Gatta Cenerentola, tocca a Cars 3. Torna e si conclude di fatto la saga di Saetta McQueen, della macchina ragazzino, la macchina senziente, che dall'America, dalla Real America, aveva mosso i suoi primi passi rampanti per diventare un campione delle corse, che in questo terzo episodio troviamo un po' alla fine del ciclo. Troviamo, come insegna proprio Disney con The Circle of Life, troviamo alla fine di un percorso superato dal giovane che avanza, dal nuovo che avanza. Però Saetta McQueen non è uno che si arrende facilmente. Preparati a diventare il più grande brand delle corse. Vai 95! Woohoo! Cinema, pubblicità, sponsorizzazioni. Ciao! Pensavi di essere famoso? Diventeremo ricchi sfondati. Signor Sterling, di che sta parlando? Della tua eredità. Ogni volta che perdi, danneggi te stesso. E allora, c'è un futuro da costruire, un futuro nel quale macchine nuove rombano più della tua, e allora bisogna provare a rapportarsi. Però, come dicevamo, Saetta McQueen non è uno che si arrende facilmente. Karin Ebdent, in questo Cars 3 riecheggiano un po' i toni e i sapori degli ultimi Rocky, no? Di quando il pugile che arrivava dal nulla ha vinto, è diventato un campione, è caduto dal trono, ma non si arrende e vuole la sua ultima possibilità. Eh sì, difficile non pensare a Rocky e alla sua saga con questo film, anche perché effettivamente è proprio molto semplice la costruzione di Cars 3 nel messaggio che vuole dare, perché proprio la saggezza contro l'irruenza, l'esperienza contro la potenza e la velocità, è proprio il vecchio che non vuole cedere il passo al nuovo, ma che poi si troverà costretto in qualche maniera a capire che i tempi cambiano e che bisogna un po' adeguarsi alla modernità, insomma. Ecco, c'è stato, Karin, un altro salto, sembra incredibile, perché anzi sembra impossibile, ma c'è stato un altro salto di qualità e di resa grafica da parte di questo film per la Disney, e ce ne siamo accorti già dall'estate, quando nei cinema si vedevano i trailer di questo Cars 3 ed erano veramente di un realismo impressionante. E guarda, Pixar, lo sappiamo benissimo, Pixar e Disney sono una delle loro proprio forze è la sperimentazione continua che hanno dei loro software. Uno di questi è proprio il fotorealismo che hanno sperimentato già con dei corti. Prima hanno portato al cinema con Il viaggio di Arlo e qua l'hanno decisamente sfruttato al meglio, rendendo proprio palpabile l'asfalto e queste macchine che corrono sulla strada. Veramente sembra di vedere una corsa vera, è impressionante. Sono veramente bravissimi in questo. Ecco, Karin, in questa saga di Radiator Springs si era cominciato con quell'America un po' crepuscolare che ricordava quasi i Coen di Non è un paese per vecchi. Qui abbiamo citato Rocky. Forse l'episodio che è un po' mancato è stato quello centrale, è stato Cars 2. Qui ritroviamo i livelli del primo? Assolutamente, rientriamo proprio al mood del primo, ci rientriamo proprio appieno. È come se il secondo quasi non fosse esistito, tant'è che anche abbiamo questo continuo rimando al mentore di Seth MacQueen, che è Doc Hudson, e vuole proprio un po' come chiudere un cerchio e però il finale che rimane un po' aperto e potrebbe aprire a uno spin-off. Bisognerà capire esattamente dove vuole andare a parlare la Pixar con questo brand, che fondamentalmente è uno dei suoi più fortunati dal punto di vista anche del merchandising, quindi non credo che lo abbandoneranno molto facilmente. Mi dispiace. I tuoi giorni da pilota sono giunti al termine. Speriamo solo che la sua corsa di oggi non sia l'ultima. Io decido quando ritirarmi. Come ti senti? Non posso entrare in pista e fare sempre le stesse cose. Non serve a niente. Non opporti al cambiamento, amico. E sai cosa farei? Cosa? Non lo so. Grazie Karin Ebnet di Movie for Kids per averci accompagnato in questa settimana speciale per l'animazione al cinema. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. E allora, l'animazione, con Karin Ebnet abbiamo raccontato un po' quello che è questo arrivo di animazione così diversa nelle nostre sale, ma così efficace, così ben riuscita. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Controlliamo il DNA della nostra progenie germinandola in capsule riproduttive. Io preferisco procreare alla vecchia maniera. Bene, magari potrei darmi una lezione di storia. E c'è chi ama la tradizione, diciamo così, in questo senso. Anche in questa clip, la rosa purpurea, @radio24.it, nome, cognome, indirizzo e titolo di questo film. Fra poco vi raccontiamo, vi sveliamo di che film si tratta. E adesso è arrivato il momento di ritrovare Boris Sollazzo, che avevamo lasciato lì in stand-by, nella sua gabbia da critico, per parlare di un personaggio, di una storia, di qualcosa che è diventato uno dei filoni, un archetipo proprio della storia dell'horror. Stiamo parlando di Leatherface. Coraggio, tesoro, esprimi un desiderio e spegnile tutte. Pronto per il regalo? Faccio uscire lui dall'auto! Il piccolo non è in arresto. Vogliamo proteggerlo. Di cosa sta parlando? Io ora mi prendo tutti i tuoi, Verna. Nel 1935 lo stato del Texas istituì un programma di tutela minorile. Ospitarli qui dentro è stato un bene per tutti. E allora, avete sentito un po' la clip che racconta come questo film, Leatherface, le origini di una delle figure, come dicevo, archetipe della storia dell'horror moderno, protagonista di una saga che è stata un cult totale per molti e molti anni, direi per decenni, come Non aprite quella porta. Faccia di cuoio, Leatherface, quattro ragazzi in fuga da un ospedale psichiatrico per insieme a un'infermiera rapita, tra l'altro, e portata in questo in vero e proprio inferno che farà scaturire le tragedie che sono state poi raccontate in questa saga cinematografica. Qui questo film, vero e proprio prequel, si concentra sulla nascita di questo personaggio, sulle sofferenze che hanno portato alla nascita di Leatherface. Boris, film che può interessare solo chi, diciamo così, per ragioni filologiche vuole completare la storia della saga precedente, o ha, diciamo così, una sua vita privata, una sua vita universale a prescindere dai film precedenti? Paradossalmente forse ha solo una vita universale e slegata dai film precedenti, nel senso che può interessare, a mio parere, solo lo spettatore che la saga di Leatherface non la conosce. perché a quel punto può trovarsi di fronte a un horror di buona fattura, con un gusto per il gore male e una capacità tecnica e anche visiva che insomma non è straordinaria, ma che è abbastanza superiore alla media degli horror moderni. Il problema di Leatherface, di questo Leatherface, che se non sbaglio è l'ottavo film in merito sulla saga del compianto Tobe Hooper, è proprio che invece chi ha amato la saga originaria, chi ha amato in particolare il film Capostipite, non potrà trovarci lo stesso fascino. Non lo dico tanto per nostalgia, ma proprio per una questione teorica e anche di politica culturale del tempo, perché Tobe Hooper faceva parte di quel new horror che vedeva una serie di registi intellettuali molto preparati che con il genere cercavano di raccontare un paese che non riconoscevano più, un paese che mandava i propri giovani a combattere in Vietnam, che mandava i propri giovani a morire e che cercavano di raccontare l'orrore in punta di metafora, oddio in punta non tanto perché poi alla fine appunto c'era sangue a più non posso e c'erano mostri inenarrabili, e che fondava la sua forza sul fatto che l'orrore non aveva una spiegazione, l'orrore non aveva un'origine, l'orrore esisteva e veniva incarnato proprio dal mistero che rappresentava. Può essere interessante per chi non conosce Leatherface sapere come nasce un mostro, questo lo posso anche immaginare, e devo dire che finché si percorre il sentiero del mistero anche in questo film si rimane attaccati al film, cioè finché non c'è una fuga dal manicomio, finché non si capisce quale di questi quattro ragazzi diventerà il mostro, si capisce che l'orrore può albergare ovunque. Il problema è proprio quando invece c'è il disvelamento. Nel momento in cui c'è il disvelamento si perde l'epica e anche l'etica devastata e perversa di questo mostro, e si perde la forza dell'orrore, la forza del terrore, la forza anche politica della narrazione. So che sembra un discorso da vecchi che borbottano, so che sembra un discorso da nostalgici, ma il punto è che forse noi, soprattutto noi che abbiamo amato tanto quel new horror della New Hollywood, dovremmo imparare a capire che questo è un altro tipo di racconto, questo è un altro tipo di epica, e che può andare bene anche questa per un pubblico giovane come lo era quello di Non aprite quella porta, e che dall'altra parte forse però dovrebbero smetterla di riesumare questi mostri e inventarne di nuovi, di cui magari raccontarci anche il passato. Voglio che ogni poliziotto da qui al New Mexico venga impegnato. Questa è opera del diavolo e va fermato. Forza, mostragli chi sei, Jed. Quella che avete sentito non era una motoretta, come potete immaginare, ma una motosega, che è proprio il simbolo. Potrebbe essere un bel gadget, devo dire, per il film. Una bella piccola motosega. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E noi adesso diamo la linea alla viabilità. Fra poco torniamo qui perché vi aspetta Michael Radford, lo ricordate, il regista del Postino, l'ultimo straordinario film con Massimo Troisi, perché un'altra grande icona italiana come Bocelli è al centro del suo nuovo film. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Il 24 settembre la Germania va alle urne. Secondo tutti i sondaggi, la CDU di Angela Merkel vincerà sull'SPD di Martin Schulz. Ma sono molte le implicazioni per il futuro dell'Unione. Un voto che coinvolge 82 milioni di tedeschi e riguarda 500 milioni di cittadini europei. Il viaggio verso il voto tedesco. In onda da lunedì 18 settembre su Radio 24 e su radio24.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, quarta parte. C'è ancora cinema da vedere in sala prima di passare ai consigli per le visioni domestiche, perché all'inizio della prossima settimana, scavallato il weekend, il 18 settembre, arriva nelle sale La Musica del Silenzio, il nuovo film di Michael Radford, il regista del Postino di Neruda, li ricorderete, con Massimo Troisi, che torna ad occuparsi di una grande icona italiana come Andrea Bocelli, un film che esce per 3 giorni, 18, 19, 20 settembre, che è un vero e proprio biopic, un film biografico ma di finzione sulla storia di Amos Bardi, che niente altro è che l'alter ego appunto di Bocelli, e ne ripercorriamo la nascita con questo dono di una voce unica, ma la grande sofferenza per questo problema degli occhi che lo rende quasi cieco, a cavallo tra la malattia e la voglia di sfondare, e diciamo così, il successo che arriva alla fine. Sottovoce Amos iniziò a ripetersi che nulla era cambiato. Devo andare, è nato mio figlio! Non sappiamo quanto veda. Sta dicendo che a mio figlio servirebbe un miracolo. Mi serve una pausa. Non devi cantare e neanche fare esercizi. Niente, zero. Troppe parole. Silenzio, non devi parlare. Che sia mezzogiorno o anche le 2, non deve interessarti che ora sia. Silenzio. Poi Bocelli è diventato quello che sentiamo, una sorta di miracolo italiano nel mondo, uno degli uomini d'arte italiani più conosciuti in tutto il pianeta. Michael Radford dirige con Antonio Banderas, Jordi Mollà, Luisa Ranieri, Ennio Fantastichini nel cast, e proprio di questo film, di questo esperimento di biopic su un personaggio assolutamente vivo e ancora in grande spolvero, abbiamo parlato con Michael Radford, che abbiamo incontrato la primavera scorsa quando il film era ancora in lavorazione al Festival della Comédie di Monte Carlo, e al quale abbiamo chiesto innanzitutto di raccontarci un po' qual è stata la filosofia, il punto di vista che voleva stare dietro questo film. È la storia di qualcuno che si è superato delle cose tremende nella sua vita, cioè che soprattutto la cecità 2 volte, e poi il fatto che lui non era eccitato, lui aveva una voce bianca, però come parecchi di quelli hanno una, cioè che quando è caduta la voce non ha ritrovato la voce che aveva prima. Poi era la ricerca di una voce. Non è un segreto che nel cinema, cioè nel teatro, in tutti i racconti ci vuole un eroe che ha uno scopo, e gli ostacoli nel suo caso sono tremendi. Anche sappiamo tutti la fine della storia, si entra proprio nella storia perché ci sono delle cose che nessuno sa fino adesso. È molto emozionante il film, anche se ride un po'. Michael Radford ci ha svelato che c'è anche qualcosa di inedito dentro il suo racconto, qualcosa che non c'era neanche nella biografia di Bocelli. Sentiamo perché. Io ho messo forse ho sottolineato delle cose che mi aiutava di raccontare una storia in 2 ore, e che sono veri. Per lui personalmente non so se erano, cioè, che al centro della sua vita, ma sono sicuro di sì, però non erano menzionati nell'autobiografia. Cioè che è inevitabile, cioè che non è che io l'ho fatto uno stronzo oppure ha cambiato, cioè che come Shakespeare ha fatto con Riccardo III, cioè il povero che era infatti uno buono, cioè che è diventato il più grande stronzo del mondo, cioè, però è quello il vantaggio di un biopic su qualcuno che non c'è più, è che si può scrivere qualsiasi cosa, cioè che per rinforzare la dramma, perché evidentemente è una dramma, la dramma della vita, qui c'è la dramma della vita. Forse abbiamo inventato delle cose che però sono delle cose che avrebbe potuto essere, cioè che non sono fuori testa, cioè che non sono fuori tutto quello che poteva esistere. All'inizio, quando ho proposto varie cose, stranamente lui ha detto che infatti queste cose esistevano, cioè che, e questo era molto interessante, perché quando stai inventando delle cose che invece erano vere, perché lui, però lui non ha pensato che erano molto importanti. Questo è il momento in cui stai veramente entrato nella storia. E allora, questo era Michael Radford alla Rosa Purpurea per raccontarci La musica del silenzio, 18, 19, 20 settembre al cinema, per raccontare la parabola di Andrea Bocelli. Noi a questo punto entriamo nella zona domestica, quella in cui vi raccontiamo il cinema da vedere in casa, partendo dal farvi riascoltare la clip con cui avevamo giocato la settimana scorsa. È un vero trionfo, sei una stella. Dici davvero? Brava, bravissima, ti faccio i miei complimenti, sei stata veramente magnifica. Grazie. C'è grazie. Un ricevimento più tardi a Palazzo Rapidi, non mancare, eh? E allora, si trattava di Opera, di Dario Argento, il film, uno dei film simbolo della stagione migliore di Dario Argento, che è stato recentemente restaurato, torna in Blu-ray, un Blu-ray che arriverà a Luca Marino di Vigevano, che è stato l'unico vincitore, l'unico che ha indovinato il nostro film misterioso. Mi aspettavo di più da voi, studiate meglio, l'altra coppia è lì che vi aspetta, magari quando arriva, adesso arriverà Natale, faremo dei grandi regali a tutti quanti. E comunque, Luca Marino di Vigevano si porta a casa il Blu-ray restaurato di Opera, che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo alla vigilia della prima del Macbeth di Giuseppe Verdi e la soprano titolare viene investita da un'automobile. Betty, la sostituta, è molto giovane, ma nonostante ciò lo spettacolo è un trionfo. La ragazza non fa in tempo però a godersi il successo, perché si trova subito coinvolta in una catena di omicidi. Festeggiamo quindi il trentennale dell'uscita di Opera, uno degli ultimi grandi capolavori visionari di Dario Argento, una cavalcata grandignolesca di omicidi sapientemente coreografati, che sembra essere puro cinema barocco, teatrale stilizzato nella dimensione psicologica, ma veramente esaltante, ancora esaltante in quella cinematografica. Dopo la versione a tiratura limitata è uscita a disco singolo Blu-ray con un riversamento del restauro e 3 ore e 30 di ricchissimi contenuti extra. Passiamo alle programmazioni delle televisioni in chiaro della prossima settimana, Giulio, partendo proprio da un omaggio che vogliamo fare al vincitore, al fresco vincitore della Mostra del Cinema di Venezia, Guillermo del Toro. Vi avevamo lasciato settimana scorsa a pochi minuti dal Leonares, come l'avevamo chiamato. Ebbene, avete saputo tutti, il Festival di Venezia è stato vinto da The Shape of Water di Guillermo del Toro, di cui andiamo a rivedere lunedì 18 settembre su Rai 2 all'1 di notte il film che l'ha praticamente consacrato a livello internazionale, ovvero Il Labirinto del Fauno. Sì, siamo nel 1944, una ragazza viaggia con la madre e il padre adottivo nelle zone rurali della Spagna del Nord, dopo la vittoria di Franco. La giovane incontra un fauno che le promette un regno fantastico, a patto però che superi 3 prove. Guillermo del Toro, appunto come dicevi, Leone d'Oro a Venezia, tesse una trama in cui reale e immaginario si intrecciano e rimandano l'uno all'altro, come se fossero uno specchio. Però non si tratta semplicemente della fuga del sogno di una bimba di fronte alle atrocità della guerra, perché gli indizi simboli dell'universo mentale di questa ragazza anticipano quello che avverrà nella realtà. Quindi è come se assistessimo a una fiaba, certo, ma una fiaba che parte già come se non fosse più innocente. Un film tra melò, fantasy e romanzo storico da feuilleton, un racconto di formazione all'orrore umano, veramente un grande film. 2 giorni dopo, mercoledì 20 settembre, un film che io ho amato moltissimo, anche questo proveniente da una Venezia di qualche anno fa, esattamente del 2013, si trattava di Via Castellana Bandiera di Emma Dante. Sì, Via Castellana Bandiera è una strada di Palermo, così stretta che 2 automobili insieme non riescono a passare. Samira è un'albanese trapiantata a Palermo, con la sua macchina ostruisce il passaggio all'auto con cui si muovono Rosa, palermitana trapiantata a Milano, e la compagna milanese Clara. Poiché nessuna vuole arretrare, si scatena una disputa che coinvolge tutti gli abitanti della via. Il teatro antropologico di Emma Dante, una delle grandi del nostro teatro, arriva al cinema e in questo primo film, che è una sorta di western con sguardi di sfida che si incrociano e duelli al sole, la tensione è quella tra 2 generazioni ugualmente ferite, quella che ha vissuto a Palermo e l'ha subita e quella che l'ha abbandonata, la madre che non vuole andare a trovare e la figlia che si è persa. In Via Castellana Bandiera vanno in scena quindi 2 mondi che sono completamente opposti ma ugualmente tormentati, sono 2 modi differenti di confrontarsi con le origini siciliane. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Io vi ricordo solo il film con cui abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di I Guardiani della Galassia, volume 2. Settimana prossima, i vincitori e tutto il cinema che c'è, come sempre, qui su Radio 24.